Eccomi, son da Giuseppe nel suo paese. E per lui un regalo senza troppe pretese. Si tratta della mia musica ed ecco questo CD. E se gli chiedo se gli piace, la sua risposta è sì. Lo vedo bene e con sé ha la sua gran cassa che si porterebbe in giro persino in Val di Fassa, perché per la musica la sua è una passione innata. È arrivato presto a scuola, si fa una bella suonata. No, non ha la gran cassa, ma il pianoforte. Non si potrebbe, ma noi siamo tutti dalla sua parte. Poi pensa stasera, quando all'organo sarà, con tanta musica di pace, amore e unità. Si ricorda che si deve preparare in giro con la banda, andrà a suonare ancora tanta musica con il suo corno. Dai Giuseppe, così domani sarà un altro bel giorno.